Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il governo sembra deciso ad andare avanti nella politica di ritorno al nucleare, e questo nonostante il fatto che una scelta di questo tipo appaia fortemente impopolare. Ma gli italiani non hanno forse già espresso con un referendum la loro posizione? E allora, perché si torna a parlare di una fonte energetica costosa e pericolosa? Laura. Cara Laura, la sua lettera riassume molto efficacemente molti, mi permetta, luoghi comuni, che continuano ad essere presi come verità quando si discute di nucleare. Innanzitutto, la scelta di oltre 20 anni fa di rinunciare all'energia nucleare, di chiudere le centrali esistenti, di sospendere la costruzione di quelle già avviate, in pratica quella di Montalto di Castro, fu una scelta unicamente politica. Dato che il referendum poneva solo dei limiti alla localizzazione delle nuove centrali e agli accordi dell'Enel all'estero. Sull'onda del disastro di Chernobyl, il voto popolare fu considerato dal governo come un veto assoluto e l'Italia uscì completamente da un settore, chiudendo peraltro anche i centri di ricerca e i laboratori di sviluppo. Francia e Germania, solo per citare due paesi vicini, hanno mantenuto le loro centrali e continuano ad avere un costo dell'energia inferiore a quello italiano. Ma vi è da chiedersi, dopo più di 20 anni, se è possibile e necessario tornare indietro. La storia ha dimostrato come sia sbagliato ritenere l'energia nucleare come costosa e pericolosa. Il nucleare richiede certamente grandi investimenti iniziali e politiche chiare per lo smaltimento delle scorie, ma la sicurezza è ormai una garanzia, così come la mancanza di emissioni nocive. E ci si può chiedere se le due strade, il nucleare e le fonti rinnovabili, non debbano essere considerate due forme di intervento complementari e non alternative. Quando fu introdotta la prescrizione per i reati, l'intento era dei migliori. Ma come spesso accade, mentre a tavolino tutto torna, nella realtà le cose possono essere diverse. Così, invece di favorire lo snellimento dei processi, secondo la ratio che con la prescrizione si sarebbero svolti gli stessi in modo più veloce, si è provocato l'effetto contrario, cioè di allungarli ad infinitum. Infatti ci sono quelli che, sapendo esserci un tempo massimo per la dichiarazione di condanna definitiva, hanno trovato legalmente tutti i metodi e i cavilli per andare oltre i termini stabiliti, allungando all'infinito appunto i processi fino a farli arrivare alla prescrizione. Il legittimo impedimento ne è un chiaro esempio, ma bastano una firma o una data o un timbro malposti. Ecco che un provvedimento utile in teoria si è rivelato una catastrofe nella pratica. I correttivi ci sono, ma il sospetto che chi approvò tale provvedimento conoscesse il suo fallimento in anticipo sono molti. Infatti questi correttivi non sono mai stati applicati anche dopo aver sperimentato il fallimento stesso. In Francia, ad esempio, c'è l'istituto della prescrizione, ma c'è anche una legge che dice che ogni processo avviato deve essere portato a conclusione. Forse avere solo 2 gradi di giudizio potrebbe facilitare la nostra giustizia. Dopo questo fallimento, non contenti, ne stiamo mettendo in cantiere un altro, ammantato di buone intenzioni e avvolto da un marketing creato da esperti del settore, il processo breve. Non è difficile immaginare che questo si trasformerà in una mega amnistia. Ciò che poi non si comprende è perché debba valere per i processi in corso, ovvero perché debba essere retroattivo. Nessuna legge dovrebbe poter essere retroattiva, per principio. Come faccio infatti a sapere che sto commettendo un reato se questo non è ancora stato definito tale? La sua efficacia sarebbe migliore se non toccasse i processi in corso, anche perché darebbe il tempo per la riorganizzazione del sistema, che è un passaggio inevitabile. Alex. Abbiamo capito, la campagna elettorale è davvero cominciata. È tutto scontato, previsto, atteso. Gli elettori del centrodestra ormai lo sanno fin troppo bene che un'opposizione debole, che solo di facciata vuole apparire forte e unita, non può fare a meno degli agguati per cercare di salvare il salvabile. Le accuse del figlio d'arte Ciancimino, ascoltato e venerato da chi si aspetta dalle sue rivelazioni la svolta, il colpo finale al nemico, a chi vota questo governo, fanno sorridere e offrono quasi un motivo in più per rivotare il presidente del Consiglio. Già, perché al di là della convinzione che prima muoveva il voto, ora c'è proprio un no a chi avrebbe la pretesa di sostituirsi senza meriti, solo avendo fatto piazza pulita con accuse indimostrabili, tanto gravi quanto tardive, da sembrare veramente studiate a tavolino e servite sul piatto del dibattito del voto, perché tutti si possano allenare nel dar contro a Berlusconi, dimenticandosi dei veri problemi d'Italia. Berlusconi non avrà neppure bisogno di parlare troppo. Ci sta già pensando come al solito l'opposizione a lanciare quel boomerang che come le altre volte le è ritornato con forza sulla sua testa, lasciandola stordita e sempre più vittima di se stessa. E per tutti i San Tommaso che non credono se non sperimentano di persona e che mettono in dubbio l'attentato a Berlusconi, insinuando che ci sarebbero lati oscuri, che tecnicamente il sangue è uscito in ritardo, la testa non ha subito un vero contraccolpo, i segni sono miracolosamente spariti e così via, auspico possano essere protagonisti di un reale incidente probatorio, dove a loro sia concesso il ruolo del protagonista, e cioè del lapidato, con lanciatore il vero signor Tartaglia che, in quanto ammira, è un vero talento. Chissà che la verità senza più ombre possa poi venirci raccontata. Siamo anche disposti ad aspettare quella ventina di giorni necessari, eventualmente avessero torto, perché riescano di nuovo a spiccicar parola, ma uno scopo sarebbe raggiunto, che per quel tempo, perlomeno, non sentiremmo dire scemenze. Giulia. Scrivo a proposito dei corsi di formazione obbligatori ai sensi del decreto legislativo 81-2008. E delle novità introdotte al testo unico sicurezza del lavoro. Ovviamente non discuto della necessità di effettuare dei corsi in una materia così importante. Vorrei invece sottolineare alcune imparzialità ai danni di diverse categorie di lavoratori. In questi corsi, infatti, non viene fatta distinzione tra aziende con più di 200 dipendenti che operano nell'industria siderurgica e un'associazione culturale con 2 dipendenti con contratto atipico. Lo stesso impegno di spesa e di tempo è richiesto a tutte le categorie di lavoratori, col risultato che nel mio caso, che rappresento un'associazione culturale, la parte che realmente è di competenza della mia struttura riguarda circa mezz'ora su una lezione di 4 ore, l'intero corso dura 32 ore, e quindi in sole 4 ore io avrei adempiuto agli obblighi di informazione e formazione sulla sicurezza. L'aggravante consiste inoltre nel fatto che non avendo un regolare contratto da dipendente, io non posso effettuare i corsi nell'orario di lavoro, perché i tagli ben noti in questo settore e la continua spinta verso l'autofinanziamento non danno la possibilità di riconoscere ore lavorative per la frequenza dei corsi. Il costo dell'operazione, inoltre, circa 1.000 euro se si è fortunati, non è in nessun modo riconoscibile nei finanziamenti che un'associazione riceve e dei quali normalmente vive. Per definizione, le associazioni non sono a scopo di lucro e quindi è ovvio che il costo per la frequenza dei corsi viene sottratto a risorse normalmente destinate ai lavoratori, riconosciute come ore lavorative o alla manutenzione degli strumenti necessari per mandare avanti l'attività. Che sia a capo di una piccola industria o di un'associazione culturale, per il governo non fa alcuna differenza e le conoscenze acquisite sui danni da radiazioni o da fumi ben poco aiuteranno la mia attività. Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui il dipendente sia uno solo. Quindi, in questo caso specifico, l'unico dipendente si trova costretto ad eleggersi lui stesso come rappresentante dell'unico lavoratore e a fare comunque il corso. Durante questi corsi è stato detto che fu proposto di semplificare la procedura ed evitare di nominare il rappresentante dei lavoratori quando i dipendenti sono in numero minimo, ma c'è stata una forte opposizione alla proposta e non è passata. A questo punto non posso fare a meno di chiedermi chi abbia voluto questi corsi e perché. Sto cercando di capire come difendermi dall'ingiustizia di essere sottoposta agli stessi obblighi di ditte e strutture con potere economico e esigenze formative agli antipodi rispetto alle mie. È possibile che ogni regolamentazione legislativa debba sempre pesare economicamente sulle fasce più deboli, senza che queste possano difendersi? Monica. Direttore. Sono un insegnante di liceo classico con 35 anni di esperienza. I ragazzi che arrivano al ginnasio dalla scuola media non sanno nulla di grammatica italiana e noi insegnanti di lettere siamo costretti al ginnasio a riprendere i programmi delle scuole medie per cercare di colmare le enormi lacune che hanno i nostri studenti. Il ministro Gelmini, in questo contesto, ha pensato bene di ridurre da 18 a 16 le ore di insegnamento e di ridurre le ore di insegnamento della lingua italiana per incrementare le ore di scienze. La prima osservazione è questa. Ridurre le ore da 18 a 16, continuando a pagare gli insegnanti per 18 ore, significa solo che non hanno i soldi per pagare i supplenti e riducono gli insegnanti a fare da tappabuchi. La seconda osservazione è conseguenza della mia premessa. Ma se già ora questi ragazzi non conoscono la lingua italiana, come si fa a ridurre ulteriormente le ore dedicate allo studio della suddetta lingua? Queste riforme non faranno altro che sfasciare ancora di più la debole struttura della scuola che ancora sopravvive grazie solo alla tenace applicazione degli insegnanti e nonostante l'incompetenza di parecchi presidi eletti al ruolo di manager. Antonietta. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.